In diretta dagli studi di Radio Panorama, per la prima volta in quest'anno con la mia voce, per accontentare anche Bummo, Antonio Panzica, Alessandro Montemagno che è a casa e Andrea Massaro, presentano L'Onda in Onda, Onda. Ed eccoci qui, non me l'aspettavo Andrea che ci presentassi dal vivo. Però è bello iniziare il 2013 in modo particolare. Per esempio io sono arrivato prima di te in radio. Esatto, roba esatto. Mai accaduta. Ma abbiamo anche concluso in modo particolare, era iniziato in modo particolare, ovvero con un regista malato. Sì, assente, esatto, in realtà, sì. Quindi ci sostituisce, cioè lo sostituisce. Ci sostituisce, quindi ce ne stiamo per andare. Noi ce ne stiamo per andare. Farò un monologo, sì. Farò un monologo. È One Man Show, Claudio Azzarello dall'altra parte, che condurrà domani, riprenderà il suo programma Positive Vibration. Vibration, il programma sul reggae che conduce insieme a Riccardo. Abbiamo anche qui un amico che ci è venuto a trovare, Giorgio. Ciao Giorgio. Sì, e per chi volesse vederci in webcam, insomma, potrà anche ammirare le fattezze del buon Giorgio. Del buon Giorgio, sì, ma anche del bel Giorgio. Ma visto che abbiamo parlato della webcam, andiamo subito ai contatti. Assolutamente, ci trovate all'indirizzo, come sempre, come nel 2012, ma nel 2013 ancora, facebook.com/londainonda con la L. O se siete dei followers, avete dei followers, siete dei twitteranti, andate all'indirizzo twitter.com/ondainonda senza la L. Se dovete mandare un SMS 380 76 90 204, se volete chiamarci 091 888 5182, e se non ci state già ascoltando e vedendo in streaming www.radiopanorama.info o .eu. È iniziato l'anno nuovo, ma noi non possiamo iniziare il programma se non con la nostra sigla. Cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, iodo, cerchiamo, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani. Sentivo degli accenni di Michelino, o sbaglio, perché è passato di qua. Buon anno, Michelino! Stai ancora festeggiando? Sono gli ultimi residui di Botti dell'inizio 2013. Botto. Hai detto botto o cosa? Botto! Botto, ti piace la parola botto? Però non ripeterla più. C'hai rotto, Michelino, vai, ci sentiamo dopo. E quello era Michelino, il solito nipote del signor Tony Scopelliti, che più tardi speriamo ci venga a trovare. Vengo Andrea, vero Andrea? Guarda, suo bambino per me può andarsi a farsi benedire. No, dicevo, speriamo ci venga a trovare Tony, lo zio. Ah, Tony, non il bambino. Magari ci darà una ricetta innovativa per l'anno che è appena iniziato. Come avete passato il... È stato un attimo un grido disperato. Sì, il nostro regista è muto, tra l'altro, che sì, neanche saluta. Non ha neanche salutato, no. Non ha neanche salutato. Senti regista, come hai passato la notte di Capodanno? Vogliamo farci un po' i fattacci tuoi. Ho passato notte e giorno un po' in giro per Palermo, mi sono trovato in certe case che non sapevo bene neanche in chi erano case. I proprietari, sì. Ma non è che forse erano delle case chiuse da un ex legge, come si chiama? No, non è quella ex legge, è una cosa, legge. Una ex legge. Qual è la legge? Sì, l'ex, le se dura l'ex. Sì, qual è la legge che le chiuse? Il nome delle case, non ricordo il nome del parlamentare che la propose. Sei proprio un giurisprudente. Dai, ma è facile. Sì, dilla. La legge mai. Merlin. Visto che era con la M. Vabbè, Merlin. Tu ricordavi più quella di Basaglia sui manicomi, perché comunque ti riguarda da vicino. A proposito, sapete che Andrea, prima di ricominciare col 2013 in radio, ha ripassato tutta la grammatica italiana, perché lui sappiamo che soffre di dislessia importante, e l'ha ripassata tutta. Giorgio tossisce intanto, pensando di non essere sentito, tra l'altro. cioè proprio si sentivano e ti comunque va bene così. Allora Andrea, questo 2013 inizia sotto novità grandiose. Per esempio si candida Berlusconi. Sì, sì, una novità che non si sarebbe aspettato nessuno. Cioè, pensa che noi avevamo 8 anni quando sì, è sceso in campo sì, e sì, lui sì, scende di nuovo in campo. Esatto, perché deve contrastare la salita di Monti. Quindi si incontrano a metà strada perdendo entrambi. Sì, speriamo, speriamo. Monti ha detto che sale. Ma dai, non fare campa. Siamo tra l'altro in par condicio, non puoi dire speriamo. Ah, siamo già in par condicio? Sì, ah sì? Sì, sì, sì. Allora dobbiamo intervistarli tutti. Oggi intervistiamo sia Berlusconi che Monti che Bersani. No, ma ieri non so se avete visto Berlusconi a 8:30 sulla 7 ha cercato di fare un'intervista con un minimo di contraddittorio con le domande della Gruber, ma sì, la Gruber non riusciva nemmeno a farlo venire di parlare perché lui chiedeva sempre di poter finire il discorso. Io ho provato a un certo punto a cambiare canale perché non riuscivo più ad ascoltarlo dopo 16 anni che quest'uomo 18 anni per quello che è nella TV. Ho detto vabbè, cambio canale. Lui si è girato verso di me e ha detto no, devi farmi finire il discorso. Anche lui era interattivo. Ah, era interattivo. Lui non solo voleva che la Gruber gli facesse parlare, ma anche che io continuassi a vederlo. Non so se tu hai provato a cambiare canale, ma io non l'ho neanche guardato. No. Ho visto solo poi il filmato della parte finale in cui lui diceva ma lei non mi ha fatto gli auguri. E quindi fa però male. Come hai visto ha un nuovo nipotino, il settimo, sì, un'altra testa su cui giurare. Lui giura sempre, sempre sulle teste sui figli, dei figli, cioè non giura mai su se stesso. Vabbè, vorrei ben vedere. Vabbè, però anche 73 anni, quanti ne ha? Potrebbe anche cominciare anche di più, a giurare. Di più? Ma sì, anche invece di più. Celentano ne ha fatti 75. Vabbè, dico questi cazzi. Che come? Il grande, il molleggiato. Dico, è una notizia. È arrivato a 75 anni, e è invece, sempre un grandio. Execuse il nostro 2012. Execuse con la morte della Montalcini. Questo ci è dispiaciuto. Questo ci è dispiaciuto un po' a tutti. Quindi, insomma, dovevamo fare. È successo proprio il 31, se non sbaglio. No, è successo prima. Dici prima? È successo il 30. Il 30? Sicurissimo, perché 30 io ero al seggio alle parlamentari del PD. Ah, le parlamentari, neanche le primarie. Le primarie di SEL. Le primarie del PD, sono diventate le primarie. SEL del PD, sì, sì. Vabbè, io direi che dopo tutta questa masnada di stronzate è tempo di sentirci il primo pezzo, di ascoltare gli Zen Circus con I Qualinquisti. Ce lo devono spiegare. abbiamo ascoltato un pezzo degli Zen Circus, i quali inquisti, quali inquisti? Perché devi scegliere quali sono. Senti Andrea, oggi quale classifica lanceremo? Perché voi sapete che da tre puntate. Sì, allora intanto diciamo una cosa per chi. Ma io non ho neanche finito. Sì, no, dobbiamo fare un'introduzione. Vabbè. Oggi non faremo un'intervista per le nostre rubriche della rassegna indie rock e pop. Ogni tanto c'è bisogno di, come dire, di cambiare. No, la prima puntata del nuovo anno abbiamo deciso di farla soft. Sì, con quindi, tanti amici, personaggi che ci verranno a trovare. Esatto. Sì. Ma dalla prossima settimana, non temete, riprenderemo le nostre interviste. Invece Antonio. Cambieranno radio. Allora, dicevo che da un po' di puntate, circa tre, che noi lanciamo le classifiche delle 10. Le 10 cose che, ad esempio, vi diranno se avete un tatuaggio. Oppure i 10 modi, com'era quello del ragazzo? L'uomo col maestro. Le 10 frasi dell'uomo col maestro. I 10 peggiori lavori al mondo. Questa è la quarta classifica invece che oggi lanciamo. Quindi la prima del nuovo anno. E sono le 10 peggiori merdate del coinquilino di merda. Ovviamente sono merdate, non è poteva essere un coinquilino. Iniziamo simpatico. Diciamo dopo questa classifica, no, sì, quindi esatto. Rimanete con noi perché sì. È importante. Andremo piano piano dalla 10 alla 1, le daremo lungo il corso della puntata. Esatto, io invece direi di passare alle nostre notizie. Quelle più notizie serie, più quelle serie. Diciamo sulle quali noi lavoriamo durante la settimana, sì, duramente perché? Per arrivare insomma a discutere di argomenti interessanti. Perché noi abbiamo parlato di Berlusconi, della Montalcini, abbiamo fatto l'introduzione. Oddio, della Montalcini abbiamo detto solo che è morta, non abbiamo detto nulla. Abbiamo ricordato. Ma bisognerebbe anche ricordarla un po' meglio. Vabbè, sono... ma dico, basta. Quelle sono bazzecole, cioè, sì. L'hanno ricordata già tutti, noi possiamo sì. Andare avanti con le notizie veramente importanti, quelle che fanno discutere l'opinione pubblica ogni giorno. Ad esempio, Andrea, ti do l'onore di leggere questa notizia. Esatto, ad esempio la notizia più importante di oggi, che è ubriaco sì. Sull'aereo, legato e imbavagliato perché disturba gli altri passeggeri. Completamente ubriaco, stava mettendo in pericolo la sicurezza, al sicurezza degli altri passeggeri. L'avevi scritto tu, esatto. No, questo l'ho scritto io al di notte. Sicurezza. Quindi è stato legato dal sedile imbavagliato con lo scotch. È stato legato dal sedile, cioè il sedile ha preso vita e l'ha legato con lo scotch. Quindi gli è dato da bere un bello scotch invecchiato 18 anni. È successo in un passeggero. Non te ne andare, Antonio. No, Antonio, no. Era una battuta stupida. No, torna per favore. Torna. Niente, Antonio mi ha lasciato. La battuta dello scotch non l'ha retta. Sei tornato, Antonio. Hai detto la battuta dello scotch non l'ha retta, me ne devo andare di nuovo. No. È un'altra battuta. No. È evidente che è un'altra battuta. Vabbè, andiamo avanti. È successo ad un passeggero islandese di 46 anni su un volo diretto da, eccolo, Lai, capitale dell'Islanda, Reykjavik. Ma non l'hai mai studiata? Reykjavik. Ma a scuola, ma cioè in geografia scuola. Non te l'hanno insegnata? Reykjavik. Ma sempre Reykjavik. Reykjavik. Sì, compare. Tu lo sapevi, Claudio, che la capitale lui annuisce. Ma c'è anche la risata. C'è anche la risata. Ma ecco, si divertono gli idioti. Ma tutti si divertono con le tue stronzate. Vai avanti. A me comunque il regista muto mi mette un po' timore. Sì, perché sì, non invece interagiva. Sì, ma lui parla attraverso lui i parla suoni. Attraverso i suoni. Sì. Da Reykjavik, quindi a New York. In base a quanto riportano le testate americane e statunitensi che hanno pubblicato la foto dell'uomo scattata da un altro passeggero che noi abbiamo qui, vediamo, poveretto, diciamo. Ovviamente non, è una non bella penso fine. Sia. Ma è lui, sì. È lui. Il 46enne aveva bevuto un'intera bottiglia di alcol acquistata al duty free dell'aeroporto. Dobbiamo fare dire cos'era la bottiglia di alcol. Poteva anche essere scotch. No, vabbè, niente. Poi completamente ubriaco, secondo i racconti degli altri passeggeri, avrebbe iniziato a gridare e sputare ai passeggeri e al personale di bordo. Ma questo te lo fai normalmente senza essere ubriaco, però. Dopo aver tentato di strangolare una signora che gli era seduta accanto, gridando che l'aereo si stava schiantando. Due passeggeri di nazionalità guatemalteca sono riusciti a bloccarlo. Io vorrei un applauso su guatemalteca. Ci voleva l'applauso, regista. No. Dai, grazie. Qualcuno ride, qualcuno applaude. Successivamente l'equipaggio lo ha legato e imbavagliato al sedile con lo scotch. Ma non si sa. Basta, ti prego. Una volta atterrato a New York, il passeggero è stato trasportato all'ospedale e scortato dalla polizia. Nessuna accusa è stata formulata nei suoi confronti. La compagnia aerea Icelandic Air. Grazie. Ragazzi, non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale al riguardo. E dopo questa bellissima notizia, di cui comunque c'è anche un video se volete cercarlo, sì, insomma, vedrete l'uomo imbavagliato completamente dentro l'aereo. Io direi di passare al prossimo pezzo, e sono i Green Day con Dirty Rotten Bastards. Next stop is therapy. Waited

per chi si fosse collegato solo adesso, sono le 18.52 e noi siamo sempre qui con l'Onda in Onda da Radio Panorama a Termini Imerese. È la prima puntata del 2013, dopo tre settimane di assenza. Annunciamo che dalla prossima puntata, la prossima settimana, l'Onda in Onda cambia orario di una sola mezz'ora. Si sposta mezz'ora in anticipo, quindi andremo in diretta alle 18, alle 20. Quindi vabbè, lo scriveremo sulla nostra pagina Facebook, cioè, eccetera. Vedi, il fatto che tu hai detto andiamo in onda alle 18, alle 20, è come se la gente dovesse scegliere in quale orario seguirci, perché non è detto può dalle scegliere, alle. Però può scegliere se seguirci in diretta o seguirci in replica alle... a mezzanotte, dalla mezzanotte alle 2. Quindi l'orario non cambia, quello della replica cambia. Solo la diretta. Ciao, lo salutiamo sempre il regista muto e salutiamo chi ci vede in webcam, sempre all'indirizzo www.radiopanorama.eu, e potete scriverci sempre all'indirizzo facebook.com/l'onda in onda con la L. Oppure su Twitter commentare la puntata con l'hashtag Onda in Onda, o a seguirci direttamente nel nostro account @OndaInonda. Ovviamente. Allora, notizia, c'è un asteroide che ci ha sfiorati, compare. Apophis? No, non lo so, forse sì. Apophis, sì, potrebbe essere. Lo so perché doveva sfiorarci, ecco. Apophis doveva sfiorarci un po' più lento. Da quello che so, doveva sfiorarci il 9 gennaio. Vi presento, cioè oggi, Andrea Angelo. Perché ovviamente avendo già l'A nel nome, io la sposterei, no? Piero Angela, Alberto Angela, Andrea Angelo. Andrea Angelo ci introduce ai segreti della scienza. Doveva sfiorarci questo asteroide oggi a 35 milioni di chilometri. Assolutamente no, erano 14. 14 milioni? Assolutamente vabbè, sì. Come dice Piero, sti cazzi. Sì, perché in effetti il termine quazzi pure. Diciamo che sfiorato è un termine un po', come dire, alto per definire una distanza di 14 milioni di chilometri. Però tornerà due volte. L'hai detto come chi presenta un telefilm. Sì, tornerà. È andata bene la puntata pilota, allora esatto, tornerà. Lui torna per la seconda stagione nel 2000 e qualcosa. Credo 2039, Alberto. Andrea Angelo. Tornerà indietro e probabilmente potrà per salutarci. Potrà non è colpirci. Molto... Ah sì? Sì, è di categoria zero, quindi è uno dei potenziali. Ma tanto diciamo, di qua al 2039 chissà che accadrà. Bombardiamo. Questo è che tu sarai morto. Che ne sai? Il materiale fissile della Terra. E sì. Ce ne siamo liberati. E ce la siamo fissati. Esatto. Ed è perfetto. Il momento super quark. Torniamo sempre con il sottofondo di Wall of Love, suonata da Santana. Sì, ascoltiamoci in un pezzo così, aumentando poco. È sempre una grande. Ma prima di annunciare la nuova classifica, dobbiamo raccontare una storia. E qui ci vorrebbe una canzone un po'. Non so, la lasciamo con Wall of Love. Lasciamo Wall of Love, va bene. Allora, parlavamo appunto dei nostri contatti Twitter. Twitter, per chi non lo conoscesse, magari sai, c'è qualcuno che non ha mai sentito dire cos'è Twitter. Twitter è una sorta di, come dire, social network dove, però, al posto di scrivere messaggi anche infiniti, si scrivono soltanto 160 caratteri massimo, giusto? 140. Allora, quindi meno di un SMS. È un luogo un po' più triste in realtà, perché se ne è appena andata Flavia Vento, la ragazza più sfottuta dagli utenti di Twitter. E qua ci vuole una risata, un applauso. Vediamo cosa sceglierà il regista muto. Lei col suo ovviamente col suo castello fatato scriveva, dal suo castello fatato in realtà scriveva sempre su Twitter. Tutti la prendevano in giro, lei retweetava, quindi diciamo metteva online nella sua pagina gli insulti. C'era come autosputtanarsi gratuitamente. Esatto, non la pagavano tra l'altro, no, per farlo. No, è deciso di andarsene per dicendo no, mi offendono tutti, me ne vado. Ma l'ha capito dopo un anno. Qui si merita un grande applauso. È un luogo un po' più triste. Ma ti ricordi i tempi in cui Flavia era lì sotto il tavolo di Libero, quando conduceva Teo Mammucari? Esatto. Stava zitta, faceva quello che le viene meglio. Ricordiamo che Teo Mammucari invece sarà ripreso alle Iene. Ah sì? Tra pochi giorni. Torna alle Iene dopo tanti anni. Sì, quindi dicevamo Twitter, è successo un fatto. Una ragazza di nome Flora ha partecipato a un concorso per vincere i biglietti per un concerto. Io purtroppo devo dire di quale band, anche se mi viene da One Direction. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Lo facciamo dire a Giorgio. No. Giorgio, no, tu no, no, neanche a Giorgio. Proprio si esplode il microfono. Gli One Direction. L'ho detto. Sì. L'ho detto. Che è una sorta di boy band del 2012. Terribile. Tutti ovviamente con i capelli piastrati. Sai c'è come quello... si chiamano i fan? I Directioner. Directioners. Che loro gli mettono anche la S. Attenzione, Flora partecipa a questo concorso e vince 3 biglietti omaggio per andare a vederli. Voi non avete idea di che cosa si è scatenato su Twitter, sul suo profilo. Vi leggo alcune delle cose. Adesso, no scusate, questo è quello che ha scritto lei. Devi morire. F- fai un aerosol con il gas, lavati con la benzina e asciugati con l'accendino. Cioè, queste sono alcune delle cose carine che le hanno scritto a questa 17enne liceale, colpevole appunto, secondo i Directioners, di aver fregato la vittoria a qualcun altro. Perché poi iniziano a dire che il suo padre è il fondatore della Kinder, che era raccomandata, hanno inventato la qualunque. Lei ora ha paura di andare ai concerti, a camminare per strada. Ha anche tante persone che la difendono. Cioè, uno degli hashtag più cliccati al mondo è "io sto con Flora", non so se ce ne rendiamo conto, è tra i primi 10 al momento. "Io sto con Flora" nelle tendenze di Twitter. Vabbè, sì questo... Quindi insomma, diciamo che la rete crea comunque dei mostri, perché al di là di essere fan, io vorrei vedere quale fan va a scrivere "ucciditi con l'accendino", "lavati col gas". Beh, cioè... I Directioner sono un fenomeno. I Directioner quindi sono un fenomeno legato a questa nuova boy band che si sta diffondendo purtroppo in un mondo abbastanza selvaggio, che è quello dei social network. Sì, ma loro sono dei bravi ragazzi, non hanno l'aria di chi ti dice, hanno l'aria che ti dice "ehi, ciao, sono gay, me lo metti lì". Cioè, non hanno l'aria di chi ti dice "suicidati". Quale dei credo quello biondino che ha la camicia legata come il prete di campagna. Care fan del biondino con la faccia legata, quando vorrete uccidere Antonio Panzica, lui su Twitter c'è, e quindi sì, potete, mi trovate Antonio tranquillamente Panzica, insultarlo e ucciderlo. Non prendetevela con Flora. Ma noi dobbiamo dare subito spazio alla pubblicità e ci rivediamo subito dopo con la nostra classifica dei 10 peggiori momenti di merda. No, dei 10 peggiori merdate, merdate del conquilino di merda. Quindi ci vediamo dopo, stay tuned. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Stiff club, it's my nature. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true and say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. A lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Tornate qui in diretta dopo la pubblicità e dopo questo gran pezzo Look Around dei Red Hot Chili Peppers, peperoncini al chili rossi caldi alla fermata del tram. giusto? Sì. Non è più o meno così? Più o meno. Comunque, per ricordare la Montalcini, direi che è giusto ricordare una delle ultime frasi che ha detto, quando aveva già tipo 99-100 anni. Non vedo bene come un tempo, sento molto meno alle conferenze, ma non mi interessa, perché io sono la mente, il corpo faccia quello che vuole. Era una grande. Veramente ricordare la Montalcini. E qua ci sta l'applauso del pubblico, oggi sono in 23. A 103 anni. Diciamo, onorabilissima età. Esatto. Tu ci vorresti arrivare a 103 anni? No, vorrei morire domani. Perché? Però, sì. Divento un programma improvvisamente dark. Ora mettiamo musica metallara pesantissima e ci tagliamo le vere in diretta. Devo mettere Ronnie James Dio. Allora, dobbiamo lanciare la nostra classifica di... Cos'è? No, la marcia funebre. Può essere anche che... Vediamola come il rullo di tamburi anticipato. No, è proprio la marcia funebre. È la marcia funebre. Ricordiamo, è vero, Andrea Massaro scomparso sul campo di battaglia. Ma domani vorremmo morire io. Ma noi da lo ricorderemo in anticipo, vogliamo precorrere i tempi. Ma quale battaglia era? Era a casa tua, tra te e non posso dire cos'altro. No. Sì, sei morto durante l'orgasmo. No, sì, vabbè, sì, però sono morto felice. Ma ho detto contro qualcos'altro, non ho detto che eri con qualcun altro. Okay. Va bene, torniamo alla classifica delle 10 peggiori merdate del coinquilino di merda. In realtà iniziamo la classifica, perché al decimo posto troviamo subito la cosa più... Are you ready? Yeah! Cominciamo! Tanto non finisce. Lui mi mette questi suoni mentre io già sto parlando. È una iupsione infinita. Sì. Allora, al decimo posto troviamo subito la cosa più brutta, no? Diciamo, che potrebbe capitarvi con il coinquilino di merda. Cosa potrebbe combinare il coinquilino di merda? Lava il cesso con la spugna per i piatti. Potrebbe che capitare, schifo. Insomma, che lui scambi la spugna per lavare i piatti con quella per lavare il cesso. Ovviamente, se durante la classifica voi ritenete di poterci illuminare, illustrare, perché magari davvero vivete in un appartamento con altri coinquilini affittuari, siete dei pendolari, ovviamente scriveteci o su facebook.com/londainonda o su Twitter e informateci su altre le peggiori merdate che combinano oppure i vostri coinquilini. Oppure sms al 380 76 90 204. Ma andiamo alla posizione numero 9. Il coinquilino di merda dice non tira mai l'acqua quando piscia, perché è uno spreco, tanto non è mica merda. Certo. Ma che motivazione è? Ma che schifo, perché devo entrare a sentire l'ammonia di quel merda di merda. No, dai, vai, siamo ancora in fascia protettissima. E poi all'ottavo posto abbiamo il coinquilino di merda, è quello che entra in casa, esce di casa, passa davanti alla tua stanza, attraversa la cucina e il salotto e non saluta. Mai. È vero, questa è una categoria che odio, perché il saluto è proprio il più. Lanciamo anche la settima. Lanciamo anche la settima, che è veloce. Il coinquilino di merda al settimo posto è quello che spegne lo scaldabagno. E ovviamente te ne accorgi quando sei già dentro la doccia. Esatto. Sono cascati i vestiti per non si sa quale motivo a terra, tu non riesci a recuperarli e urli ovviamente bestemmie in tante lingue tutte diverse. E c'è sempre quest'urlo che ci perseguita, non ovviamente. Sappiamo cos'è. Va bene. Però vabbè, non preoccupatevi. Allora, era andiamo subito. Ovviamente il coinquilino che urlava. Ah, il coinquilino che urlava. Senti, andiamo invece a intervistare. Ci scrivono, ricordiamo l'ultima frase detta da Montalcini prima di morire. Ah. Non lo so, ci hanno scritto, compare. Io ricevo e leggo. Senti, allora, invece dobbiamo presentare un ospite che è dall'anno scorso, che non ci viene a trovare. Questa è una battuta simpatica. Sì. Ti va a mezz'otto e un minuto, amico, compare, non ti vedo un anno. Esatto, vabbè, minchiata. Ogni tanto ci vuole. È dall'anno scorso, comunque non ci viene a trovare, fatemelo passare questa battuta. E lui, diciamo, è un uomo che ha girato, chissà cosa avrà cucinato a Capodanno, perché, come avete capito, lui è un ex medico nutrizionista che... Lo vado a chiamare. Sì, vai. Che ha ucciso una persona con... Dov'è Antonio? Ah, Antonio è andato a chiamare Tony. Ha ucciso una persona malata di ipertensione facendogli una ricetta dell'anduia calabrese. E quindi è morto. Da allora gira le radio d'Italia per espiare la sua pena e lavare l'onta di questa vergogna. E insomma, lui viene qui il mercoledì a Radio Panorama e vuole portarci quelle che sono le sue ricette tipiche della Calabria. Vedremo cosa ci porterà oggi, ma non possiamo non presentarlo se non con la sua bellissima tarantella calabrese, perché lui è Tony Scopelliti. Buon anno e bentornato. Buon anno. We wish you a Merry Christmas. No. Tony and a Happy New Year. Tony. Ti stavo augurando pure un buon anno, sì. E mi sono prime. Va bene, accomodi per buon me. Buon anno, caro Toni Scopelliti. Buon come anno. Sta? Benissimo, ma qui chi sto pare il buon Fabio, che sta sempre muto. Chi? Il nostro regista? No, no, ma tutti noi. Sì, sono due buon Fabio. Non sapevi chi è Mingo e qui Fabio. Mi pare che ora è Minghia e Laura e Fabio. È possibile. È possibile. Caro Toni, come è passato il suo capodanno? Ha cucinato al cenone? Ovviamente al hanno fatto cucinare a mia. Minghia. Eravamo in un hotel, c'è pagato, io finalmente mi ha riposo. No. E dice, lei ormai è famosa. Eravamo troppo, in Olanda. Esatto, eravamo in Olanda, Amsterdam, arrivò cuoco tutto un po' mazzato, sapendo se era. Com'era il cuoco? Un po' mazzato. Un po' mazzato. No, un po' mazzato, con caffè. Un po' mazzato. Un po' mazzato, ah, pieno fumoso. Esatto, un po' c'era il fumo della cucina, o erano i cani. Sì, non lo saggio. Allora, e niente, vieni che mi fa. It's come che si capa anche si provoca anche la cucina. Ah, sì, lo so. Esatto. Quello che dicono a me ogni volta quando mi. No, com'è che ci cambia? Perché mi disse esattamente. Perché conosco l'olandese, la lingua è il fiammingo. Fiammingo. E mi disse, ah, va bene subito in cucina a cucinare, se no ci non caccio il tuo culo. Ho capito. E allora io partivo e cucinai un gatto più tipico della cucina capodannese e calabrese. E quindi diamolo, magari per il prossimo anno lo facciamo segnare subito. Ma sì, ma tanto si può fare. Ascoltatori. Sì, ma si può fare anche a gennaio. Entro, no? Anche la Befana 2. Entro la Befana. Domani la Befana. Diciamo, entro San Valentino. Esatto. Piatto si può esatto, fare. Esatto, esatto. Allora, come si chiama? O baccalà a maniera d'arcavagata. Cosa? Come si o chiama? O baccalà a maniera d'arcavagata. Un attimo, allora, baccalà. Baccalà. Okay. Al modo dell'arcavacata. Cos'è l'arcavacata? Arcavacata era il nome che si dava a un'antica mucca che abitava vicino alla zona dove c'era il cuoco Mendoza. Se l'ha inventato? Ovviamente sì. Non sapevo altro. Avevo creduto. Però per un attimo vitte nel suo occhio. Come dire? Come fa a sapere cos'è l'arcavacata? La verità. Ma sì. Sogno calabro. Allora, caro Toni, mi dica gli ingredienti di questo. Intanto allora, cos'è un primo, un secondo? Ma faccia lei, può fare primo, secondo. E a me mi piace pensare che sia un mezzo. Un mezzo? Sì, sta c'è il primo e il secondo. Può fare chi duca. Però abbiamo, so che ha portato anche un'altra ricetta. Certo, questo è un mezzo. Che sta a spare veloce. Okay. Ti pigli un bello baccalà. Sì. Già spugnato. Spugna... È spugnato, c'è cato fottista. Ah, alla, è spugnato. L'importante da un... è non comprarlo. Cioè, no, c'è... mai comprarlo. Perché no, no, ma è proprio stupido. Come spugnare la Bastiglia. E spugniamo il baccalà. Ma che sei bravo fatto, ma su luminatrice. Dove andavo con una cosa da tallumau. Comunque ma praticamente cosa? Mallumau. Sì. Sì. Questo baccalà è. Allora è lei passa davanti a un pescetto, il suo fotte, perché sì, gli dà quel sapore, no, di avventura. E dopodiché lo delisca e lo taglia a grossi pezzi di almeno un chilo l'uno. Un chilo l'uno di pezzi, pezzo, o di lisca? No, no, pezzi. Pezzi di un pezzi. Chilo, sì. Le lische le dai ai gatti se lave. Certo. Su lave la catta. Compriamo i gatti. Certo. Rubiamo il baccalà, compriamo gatti. È una cosa chiarissima questa cosa. Poi ci vuole ovviamente un'altra cosa, che è la farina di grano turco. Sì. Se ci sono celiaci, fottetevi, non mangiano, non cioè mangia. Non è che è un problema vostro, cioè, non abbiamo mai analizzato questa la ricetta può farsi soltanto. Sì. Non abbiamo mai analizzato la celiachia perché fondamentalmente non me ne fotte niente. Certo, lei è un medico, ma no, ex, no, non pianga. Poi ci vuole tanto olio d'oliva. Tanto olio. Extravergine, non aggiungo altro. Va bene, lei va lo bene. Sa che dopo, l'olio... non facciamo venire questa battuta nel 2013. È l'unica cosa vergine rimasta. Va bene, nel nostro va bene, anche nel 2013. Passate i pezzi di pesce nella farina, friggetele e così si forma una crosta dorata. Basta. Questa è la ricetta. Arcavacata, ma ora tenere ognuna è che è molto semplice. Vabbè, ma io avrei sparo subito un'altra. Vuole un altro primo? Sì, sì, io vorrei proprio un piatto bello anche. E allora, dire, siccome lei è un porco, le propongo i cannarozzi in cipottate. Cosa sono i cannarozzi? I ditalini? No. Come no? Se ci stai traducendo, perché mi dici no? No, no, no. Ditalini? Sì. E il fatto che lo prolungo che la fa scandare? Sì. A lei un'altra cosa se ci no prolunga? Come faccio? No. Stai vedendo? No. Con salsa di cipolla. Con salsa di cipolla. Ah, ditalini con salsa di cipolla. Facili. Facilissime. Cosa ci vuole? Immagino ci vuole i ditalini e la cipolla intanto. Lei è sempre un porco, però ha ragione. Ci vogliono ditalini in grande quantità. Quanti? Più ve ne fate meglio. No. No, dico, no, più ne comprate meglio. Più ne fate nel senso di cucinare, ah, capisci? Certo. Poi ci vanno 5 kg di cipolle dolci e 5 kg di tropea. Solo di tropea. E poi deve cantare a San Tropea. Certo. A cipolla si mette con me, così. Con me. Poi ci vuole 3 kg di pomodori pelati, Sallumau, quelli anziani, sì. Sallumaro. Poi ci vuole la ricotta salata dura. Dura. Perché se ci sono i ditalini, certo, ci deve stare ricotta salata dura. Va bene. Quindi i ditalini li abbiamo detti, quanto volete, olio d'oliva, sale, pepe rosso peccante che duca per tacchi. Com'è? E che giocava ammazza. Ah, il pepe è il suo vecchio vizio, no? Della, esatto. Affettate i cipugli, fate conoscere un colore della riva, aggiungete poca acqua per impedire che il rosolino. Dovete impedire che si avvicina al rosolino, perché c'è sempre c'è in famiglia. C'è un nemico, un in nemico. Famiglia... Aspetta, che chiamo un attimo, a me ne pote cacciozzo di quello. Michelino! Vieni qua, Michelino. Gioia, parla un poco. Dicillo come il Rosolino. Vedi che sei ingazz... È vero? È vero che sei fottuto sempre di cose il Rosolino. Come pure la bevita? E vuole mangiare? Buoni? Ma che cosa c'è di buono? Satte molto, Michino, pare che addentasse il babbo. Questo bambino è... veramente? Caro Tony, dico... Poi, a parte preparata... Quindi c'è questo nemico invisibile che è Rosolino. E dovete evitarlo. Sì, quindi è, non è che è per impedire che Rosolino... Secondo lei? Lei dice. Io direi. Pensava lei al congiuntivo. Io pensavo al congiuntivo. Ma lei è troppo intelligente. Forse però potrebbe essere anche un amico invisibile. Diciamo, fate Rosolino. Voi. Se avete il rosolino in famiglia, non cucinate o eliminatelo. Esatto. Oppure fatele rosolare. A parte, preparate una normale. Una normale. Cioè, una cosa normale. Una salsa di pomodoro normale. Normale. Da aggiungere una volta rotta alle cipolle. Come? Una volta? Rotta. Rotta. Lei apre la bottiglia un po' tipo l'uovo. Ah, e la fa cadere lì. Questo è il procedimento. E il rumore è chiesto. Un po' di vetro che va dentro. Tac. Ok, sì. Amalgamate il tutto col pepe rosso peccante, possibilmente a pezzettuna. Sì. Seguito catacchiana, hanno cilipendo e te spalanga l'ipofisi. E servitevene per condire la pasta, sulla quale scospargere dalla fine del ricotto detto Giacomo. Qualcosa come. Non ci ha fatto a dirlo meglio a così arrotto detto Giacomo. Non riuscisse a allora ci saluta il nostro Tony Scopelliti, che è morto, è caduto senza fiato sul tavolo. E noi allora passiamo al prossimo pezzo e ci ascoltiamo gli SDC con Thunderstruck. We'll be right back. ritorniamo in diretta. Questi erano gli SDC con Thunderstruck. C'era andato Tony Scopelliti, ma torneranno nuovi altri ospiti. Sì, come ovviamente l'onorevole, a parte il cavaliere, a parte il cavaliere che è qui, insomma, Fidelio. Fidelio che l'abbiamo Giorgio. Lasciato in, in Siberia. Vero, ti sarà ricordi? Tornato. L'abbiamo lasciato in Siberia. Due saluti veloci. Salutiamo Vai. Stefania che ci sta ascoltando a Palermo e Alice che ci sta ascoltando anche da Palermo. Saluti anche da parte di Giorgio che vi ama. Salutiamo anche Giuseppe che ci sta invece ascoltando online e ci scrive da Twitter e dice: nell'attesa del ritorno di Apophis nel 2036, intanto potreste darci alcune notizie relative alle imminenti comete del 2013. Vero, perché? Perché cioè, compa, che c'è? Potreste darci, guarda, sta morendo il regista, potreste darci eminenti hai detto alle notizie relative alle imminenti. No, tu hai detto intanto potreste darci notizie relative alle imminenti comete. Mi sono mangiato la lingua. Imminenti comete del 2013. Perché? Perché il 2013 è vero, verranno, la Terra verrà, diciamo, avvicinata, si avvicineranno alla Terra due super comete, senza rischi però, diciamolo, e sono, una delle più, diciamo, importanti è la Ison, se non sbaglio a dirlo, che dovrebbe essere addirittura più luminosa della Luna piena. Ma che dici? Sì, dovrebbe essere più luminosa della Luna piena, a meno che queste comete, che, tra le quali la Ison, che proviene direttamente dalla nube di Oort, quindi contiene le molecole con le quali si è formato il sistema solare senza essere alterate, non si frantumi durante il passaggio nel sole. Tu dici: come faccio a sapere queste cose? Le leggo. Ah, e io quello che stavo facendo segno al regista di fare partire l'applauso. No. Ovviamente non te lo meriti, ma ti meriti una sonora risata. Sei il nostro regista. Ma vaffanculo. Ecco. Basta, sì, basta. Dai, parliamo all'issio. Ma perché devi? Ma non ce la tra l'altro quello devi cantarci. Scusa, potresti mettermi quello in basso? Eccola, no, ecco, bravo. Che da un po'. La signora, pronti a parlare con l'issio? Vai! Attiva, eccolo là. Patata. Lo sapevo. Hey, evviva chi l'ha creata. Tu di sì, mi prego. Scusate. Sì, la smetti. La destrezza dell'umanità. Fantastica. Io la patata la adoro. È bravo, però neanche anche si tu. Sente se spero se anche canti tu sopra. Sì, no, a me piace la patata tantissimo. Io direi di riprendere subito con la nostra classifica delle 10 peggiori merdate del coinquilino di merda. Eravamo rimasti al sì. punto numero 7. Allora passiamo al punto numero 6. Al sesto posto abbiamo il coinquilino di merda. È quello che lo incontri per strada con il tuo giubbotto, perché ha aperto l'armadio quando non te lo aspettavi. Esatto. Assolutamente. Ma invece al quinto posto abbiamo quello che è il coinquilino di merda. È colui che trasforma la casa in un ostello della gioventù. Ovviamente quando stai preparando esami, perché non è che ci si mette d'accordo per fare una festa. Sì, succede, però questa è bellissima. Al quarto posto, quindi lasciamo poi il podio finale per l'ultima parte della puntata, l'inquilino di merda è quello che ti offre il tuo cibo. Beh, io posso dire che sarei un po' il coinquilino di merda, perché mi tu piace offrire so. Il cibo degli altri. Sì, apriresti il frigo e poi ti divertiresti anche, insomma. Quando sono ospite, diciamo, degli altri, prendo il frigo. Ah, ma vuoi? Ma tu guarda che sei una persona di, diciamo, no, a prescindere, no, no, dai, dall'essere coinquilino. Ma vogliamo un attimino, ecco, Il regista parla. Un applauso al regista. Tutto lo studio, vi prego. Caro regista, parlaci, ecco, vai, dimmi. Vai. Insomma, io volevo un attimo sbrignare il nostro caro Andrea, che ha il sbrignare sì, è un bel termine. Il piacere. Io so di un piatto prelibato che tu in genere ami quando apri il frigorifero, un po' di carne cruda. Sì, ecco, sì. Vogliamo raccontare. E la offri agli amici quando tornano a casa? Perché la offro? No, questo non me lo ricordo, questo particolare. No, non lo so, dico, la offri. No, non la offro, però mangio la carne cruda, è vero. Mi piace tanto che la carne schifo. Cruda. La carne, il tritato o la salsiccia completamente cruda. Stai scherzando? No, mi piace. Ma una dire. Cosa sono i gamberoni crudi, ma un conto è la carne. È buonissima la carne cruda. Tu non l'hai mai mangiata la carne cruda? No. È buonissima. Tu prova la carne tritata. La mangia il mio cane, il quando tritato. Fai le prima di fare le polpette, no? La mangi anche cruda. Con un po' d'uovo. Sì, gli metti l'uovo sopra e la mangi, è buonissima. È una persona. Vedi quando io dico che a parte, anche se non sei un coinquilino, sei una persona di merda. No. Ma scusate, chi di voi all'ascolto ha mangiato mai carne cruda? Ma guarda che tantissima gente mangia. No, la carne no, cruda. Ma io voglio saperlo dai nostri ascoltatori. Mandateci un SMS adesso al 380 76 90 204 e confessate se anche voi avete mai mangiato la carne. La carne cruda. La carne cruda, ho mangiato la carne, perché è un po' così. Vabbè. Vediamo, vedremo anche i vegetariani cosa diranno di queste affermazioni. Vediamo una notizia, vediamo una notizia. In Svezia, durante il telegiornale, vanno in onda il telegiornale. Il telegiornale vanno in onda. Questa non so se tu la sai, ma sai che sullo sfondo dei telegiornali negli studi si vedono gli schermi accesi, no? Sì, su altri canali. Sì, è andato in onda un porno. 10 minuti di film porno. Mentre la giornalista del canale svedese TV4 era in collegamento con il corrispondente in Siria, durante l'edizione del mattino è partito accidentalmente un film erotico visibile sullo sfondo dello studio. Da TV4 hanno reso noto che l'errore è dovuto al fatto che l'emittente possiede anche altri canali per adulti che mandano in onda pellicole a luci rosse. Cioè, voi vi immaginate, quella parlava in roba seria alla Siria e dietro ci davano dentro di brutto, di brutto. Allora, io invece devo dare una notizia che riguarda anche la cosa che abbiamo detto della carne cruda. C'è un uomo che ha fatto peggio di me. Ha ingoiato 28 uova crude. 28 uova crude. 28 uova crude. Cruve. 28 uova crude. Ma dov'è Vara? Uova. Com'era uova crude? Sì. È il quello che mangia Vara Menier. Vara Menier mangia le uova crude. È il nuovo cibo del 2013. Sembra anche il nome di una uova crude. Di una disciplina tedesca. Heinz uova crude. Uova. Uova. Ingoia 28 uova crude per scommessa. Muore subito dopo. C'è anche il video di questo deficiente che le mangia. Però sì. Non credo si veda che muore. A Tunisi, una scommessa gli è stata fatale. Un giovane di 20 anni è morto a Kairouan, nel centro della Tunisia, poco dopo aver ingurgitato 28 uova crude per una scommessa con alcuni amici. Lo ha reso... pirla peggio di te, sì, lo ha reso noto la Shams FM, precisando che l'ammontare della scommessa non è stato precisato. Da Duhau Fatnassi, 20 anni, ha inghiottito tutte le uova in un solo boccone, ma è stato preso subito dopo da forti dolori addominali. È morto poco prima del suo arrivo in ospedale. Proco prima. Proco. C'è sempre un segno che gli articoli sono quelli che devi leggere tu, sì. No? Cioè non ci si può fare niente. Proco prima. Perché sono uova crude di Vara Menier. Senti, ci spariamo un pezzo e poi vediamo se arriva Fidelio o sì, qualcun altro. Ovviamente. Vabbè, non ci spariamo un pezzo perché abbiamo la pubblicità che incombe. No, è dopo la pubblicità. È dopo la pubblicità. No, cioè nel senso parliamo e abbiamo dopo un po' la... No, adesso c'è la pubblicità. Io vi consiglio, mandiamo un pezzo e poi la pubblicità. Il nostro regista fa segni soltanto dopo, sì, dopo. Fa sempre dopo, segno dopo, non si capisce. Va bene, allora ci ascoltiamo Ash Grunwald con Walking. E poi la pubblicità è tornata, restate con noi perché torniamo noi, insomma, state qua. Yeah. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Typical. Eccoci tornati in diretta qui con l'Onda in Onda, mentre stavamo vedendo un filmato molto divertente di un tizio che ad Alessandria, nel piemontese, ha pensato bene di fare un'improvvisata durante la messa di Natale. Si è vestito da Darth Vader. Da Darth Vader? Da Darth Vader? Non lo so, come si dice in Italia, perché purtroppo io non sono un fan di Star Wars. Ti uccidono, Darth Vader. Quindi già c'ho contro i Directioners. Sì, i Directioners. Star Wars. Se la puntata durasse un altro po', credo che avrei contro anche la regina Elisabetta. Ma siamo sempre qui in onda alle 19.39 o se ci ascoltano in replica le mezzanotte 29. Manco per niente, l'1.09. Che... altrimenti sarebbero le 18.59. Ma come sei un cretino. Però state con noi, perché fra un pochettino. Stai parlando con me? Stai guardando me? Sì, esatto, state con noi. Perché? Perché verrà con noi in intervista Marco dei Film Brutti, che vi consiglierà il primo film brutto dell'anno. Ma quindi l'abbiamo una rubrica oggi? Certo, non abbiamo intervista i gruppi indie rock, però avremo il nostro caro Marco. Così gli faremo gli auguri di buon anno. Ma sbaglio, aspetta già un bimbo? Non lo so, possiamo chiedergli. Può essere che l'ha concepito in queste vacanze. È possibile, dico. Quindi nascerà a settembre. Non è una cosa difficile. Continuiamo con la nostra classifica delle 10 peggiori merdate del coinquilino di merda. E siamo alla posizione numero 3. Perché siamo sul podio. E al terzo posto delle 10 peggiori merdate del coinquilino di merda abbiamo quella che... lui usa da un anno lo stesso asciugamano, il tuo. Questa è una gran merdata. Anche molto figo. Ma tra l'altro poi dipende anche... sì, esatto, l'altro fa anche schifo, puzza, cioè non so se gli convenga, comunque... Al secondo posto abbiamo quello... questo è tremenda, io lo odio. Io questo, anche se non ho mai condiviso una casa con altri coinquilini, quando succedeva anche in vacanza, odiavo questa cosa. È quello che non parla e usa i biglietti sul frigo. Quei cazzo di post-it gialli pure per dire, non lo so, comprate l'acqua. Dimmela a voce, magari ti passa davanti e lo appiccica e te lo vuole dire davanti, lo potrebbe dire davanti. Al primo posto, delle 10 peggiori merdate del coinquilino di merda, c'è quella che farà tremare tutti quanti. Perché... c'è un rullo di tamburi? Non abbiamo un rullo di tamburi, no, perché... vabbè, dai, per reintrodurlo comunque... aumentami un po' il sottofondo invece, perché se non pensi di avere un coinquilino di merda, allora sei tu! Yeah! Abbiamo scoperto qual era la peggiore delle merdate, proprio quella di essere tu che ci stai ascoltando. Il coinquilino di merda. E magari lo è davvero quello e che sta ascoltando. E se vivessero insieme due coinquilini di merda? Questa sarebbe una gran merdata, ma magari si troverebbero bene insieme. Esatto, magari quale sarebbe insomma... La merdata che potrebbero farsi a vicenda. Mi fa piacere che in questa pubblicità tu sia diventato ancora più deficiente. No, nel senso, quale sarebbe la merdata che possono farsi a vicenda? Due coinquilini di merda? Sì, per essere fastidiosa per entrambi. Parlarsi. Perché se normalmente il coinquilino di merda vuole stare in silenzio, due coinquilini di merda che si parlano tra di loro implodono. È vero, papà. È vero. Potrebbero implodere su se stessi. Anche su se stessi. Il nostro regista annuisce. Esatto. Silenzioso. Esatto, sempre quindi silenzioso. Abbiamo regalato questa quarta classifica per il quarto mercoledì di fila e andiamo avanti con le notizie che vengono da tutto il mondo. Ne hai una tua, Andrea? Sì, ovviamente, perché i vampiri sono tra noi, se lo domanda un giornale, il Blitz quotidiano. Ma tu credi nei vampiri? No, però credo negli alieni, l'ha detto Medvedev e l'ha confermato soprattutto Fidelio Cusimano l'altro giorno. Ah, è vero. Ma Fidelio tra l'altro tra poco dovrebbe collegarsi Dovrebbe collegarsi con noi, ma perché? Perché un ragazzo di 16 anni spunta i denti da Dracula. È successo a Chongqing, a Wang Pengfei. Ma tu ti rendi conto di una cosa? Che noi tendiamo, quando leggiamo dei nomi giapponesi orientali, a fare quello che ha fatto Andrea. Dobbiamo ammettere, a dire Chongqing. Tu pensa se loro dovessero leggere una nostra cosa all'italiana, urlando la città, i maccheroni, Roma. Esatto. Cioè, non c'è senso. Non ce la fanno. Non c'è un senso. Insomma, lui si chiama Wang Pengfei, a 16 anni. Wang Pengfei è stato trasportato in ospedale dopo che la madre aveva segnalato ai medici che a suo figlio erano spuntati due denti da vampiro. Ovviamente prima c'è stato bisogno della rianimazione per i medici che stavano ridendo fino alle lacrime. Come si chiama il figlio? Wang Pengfei. Abbiamo Wang Pengfei. Perché erano in Italia. Esatto. Scusi, mio figlio ha avuto denti vampiro. Vabbè, cos'è il capo? Come si chiama? Wang Pengfei. E loro morti. Esatto. I medici però non sono riusciti a dare spiegazioni. Wang, vedi come già, Wang potrà operarsi soltanto dopo aver raggiunto i 18 anni. Perché? Il costo dell'operazione si aggira, non lo so, ora intorno ai perché. 70.000 o 80.000 yuan. Chi ha messo l'articolo non è che ha tradotto 70.000. Ma yuan, scusami, non sono yuan. Gli yen in Giappone. Perché yuan? Alla Yuanna. Yuanna sostene. Pare circa 120.000 euro. La madre di Wang ha raccontato che il figlio è stato... C'è una salita, la madre di Wang? Sì. È stato costantemente isolato e preso in giro dai compagni di classe per avere i denti da vampiro. Ma perché tu... Vabbè, io conosco una che c'ha i denti da vampiro. Vabbè, ma veramente? Se do nome e cognome, credo che sia... Però vabbè, potrebbe chiamarsi Wang Penfei. Potrebbe essere. Wang Penfei 2. Questa è una notizia che potrebbe riguardare Andrea in un futuro non troppo lontano. Troppi peti in ufficio. Lavoratore rischia il licenziamento. Quello che faccio in studio ogni due secondi praticamente. Eccolo, questo una è... vicenda avvenuta in Maryland, Andrea, e che tutto ora deve essere risolta. È curiosa e fa anche un po' sorridere. Oddio, un impiegato rischia seriamente di essere licenziato per un motivo insolito: troppi peti in ufficio. I colleghi non riescono più per ovvie ragioni a trascorrere 8 ore assieme all'uomo petomane, e per questo hanno chiesto ai superiori di intervenire, in quanto l'ambiente lavorativo è divenuto, io direi, irrespirabile, più che insopportabile. Il dipendente, che rilascia odori sgradevoli, ha ricevuto recentemente una lettera di rimprovero inviata dai superiori, invitandolo a risolvere la sua problematica, ed ecco uno stralcio della missiva: troppo flatulento, tanto da creare un ambiente intollerabile e ostile con i colleghi. Un po' con la voce questa del radiogiornale fascista. E se fosse stato Wang Penfei? Wang Penfei, questo l'ho tradotto, ovviamente. Wang Penfei peta sempre. Va bene, allora passiamo al prossimo pezzo, e poi ricordiamo che sarà con noi Fidelio Cusimano. E adesso ci ascoltiamo i Fun con Some Nights. Casting in my bad luck, some nights I call it a draw. Some nights I wish that my legs could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Terrible. Ed eccoci sempre qui in diretta con l'Onda in Onda da Radio Panorama. C'è il nostro amico Giorgio che si allontana e ci mancherai per sempre nei nostri cuori. Va bene, sono le 19.49. Mi viene da ridere perché penso a tante cose. Io non ce la faccio. Vabbè, mi ha lasciato da solo il mio collega Andrea. Siamo rimasti io e te, caro Claudio. Come stai? Io benissimo, benissimo. Bello perché lui ha te. Dio! Dio! Comunque, tu benissimo. Vabbè, Andrea ha perso un po' qualche pezzo di cervello anche durante l'ultima. Sì, perché vedo un po' spastico. No, no, ma lui si è proprio allontanato in questo momento perché è andato a chiamare il prossimo grandissimo ospite. Io trovo, cerco di trovare sempre le parole migliori per presentarlo, ma è dura. Soprattutto nelle ultime due puntate mi ha regalato delle emozioni che difficilmente dimenticherò. Tra l'altro, per chi ci ha seguito sa benissimo che lui ci è riuscito a contattare addirittura dal, credo dal, cos'era? Nuova Zelanda, non mi ricordo. No, qualcosa di ghiacciato, credo Siberia. Dalla steppa siberiana. Esatto, dove abbiamo trasmesso anche il famoso pezzo che si chiama Pop-off. Il Pop-off, lui. Bravissimo. Bene, stiamo parlando ormai da tanto di lui. Lui è veramente quello che si definisce una persona appassionata, una persona che crede in quello che predica, in quello che racconta. Lui ci dà l'onore e l'onere anche di ospitarlo da circa 3-4 stagioni qui all'Onda in Onda ed è l'ultimo vero baluardo del comunismo in tutto il mondo. Non si ferma lì in quel posto che sembrerebbe piccolo, ma piccolo non è, dal nome Regalcioffoli in provincia di Rocca Palungba, ma lui è espande la sua voglia di comunismo in tutto il mondo, direttamente dal collettivo Giancarlo Mattello. Sulle note dell'Internazionale Comunista do il benvenuto a Fidelio Cusimano. Buonasera, buonasera Fidelio. Buonasera, buonasera. Come è andata in Siberia? Benissimo, buonasera intanto a tutti voi e tutti gli ascoltatori di Radio, Panorama in Siberia. È andato benissimo. Buon anno intanto. Buon anno, noi ci siamo salvati dall'olocausto, da tutto il gelo. Abbiamo ripreso Popov, abbiamo ripreso Medvedev, abbiamo ripreso Stalin dal ghiaccio. Li abbiamo tutti usciti, abbiamo salvati, siamo vivi. E ecco. Basta, volevo dire solo questo. Non mi si spasmizzi. No. Ma senta, quanta gente avete perso durante la spedizione? 1200 persone. Ma quanti eravate? Scusi. Tantissimi. Ma certo, per perdere 1000. I comunisti del mondo. Ma scusi, lei come vede? Tutta la Cina in un bunker. In un bunker. Tutta la Cina. Tutta, scusi, la Cina. Tutta la Cina credo siano circa 1.800.000.000. Sono di più. Sono. Ma di non più. Erano tutti con voi. Erano tutti con voi. Ma sarebbe tutti affondata la Groel. Non è vero. Perché non mi fa parlare? Non è vero. Mi scusi, non è possibile. Cioè, buonasera. Buonasera. Buonasera, buon anno. Buon anno. Senta, come vede il 2013 come anno del comunismo? Ma guardi, noi abbiamo fatto un sondaggio. Un sondaggio commissionato per un programma televisivo di Regalcioffoli. Noi siamo dati al 46%. Rispetto a chi? Rispetto a tutti. Perché lo dice questo sondaggio? Perché è importante, vuol dire che il nostro Cineforum sta portando risultati. Ma molto avete bello. Girato qualche film in Siberia da trasmettere, magari con un, no, un Super 8, tutta no? Tutta la, ovviamente la nostra filmografia che abbiamo. Ve la siete portata in Siberia? Ovviamente. Ma non, scusi, non ovviamente. Si sono ghiacciato. Non si è ghiacciato tutto? No, no, l'abbiamo messo nelle teiere. Scusi, ma lei si è fumata la steppa o cosa? Perché la vedo un po' particolare. No, l'abbiamo messo nelle teiere. Dice no, apri. No, l'abbiamo messo nelle teiere. Scusate, non so chi c'è. Potrebbe ridire un nome? No. Ma un attimo, ma mi faccia finire. Verso la webcam, così i nostri amici vedono il suo esoftalmo. No, no, no. Guardate, no. Non è un po' diverso dal solito. Volevo dire, noi del collettivo abbiamo preso un bellissimo, sì. I nostri bellissime pellicole abbiamo avvolte, l'abbiamo messa nella teiera. Teiera, sì. Poi abbiamo detto no. Una teiera comunista, no. Perché no? No, perché no? No, non si può fare. Ma perché l'anno del no? No, no. No, addirittura, cioè, anche alla domanda perché si risponde con no. Come sta? No. Ma abbiamo messo ma non saprei. Non si sa. Dipende. Abbiamo messo queste pellicole, abbiamo chiuso in queste teiere col tè caldo e quindi hanno resistito alla neve fredda, chiaramente. Neve. Senta, Michelino vorrebbe dire abbiamo qualcosa. Abbiamo trovato neve calda. Michelino vorrebbe dire quel qualcosa. Quel bambino. Sì, un attimo. È il sopravvissuto. Tra l'altro so che anche lui ora parla un po' come lei, però vorrei provare questa cosa. Michelino, puoi venire un attimo? Cioè, sei anche cresciuto. Io pensavo avessi la stessa voce di prima. Chiami Yogi? Comunque Michelino si sente malissimo. Vabbè, Michelino torna a giocare. Bambino, come vede, ma perché è diventato come lei? Lei ha deciso di parlare un po' come me, quindi... Oh, io non l'ho deciso. Bambino, so che stando un po' con lei, appunto, andando con lo zoppo, questa esigenza, se sa come va a finire, no? Sì. Comunque ha un film da proporci. Sì, guardi, allora noi oggi facciamo il primo film del 2013, il secondo, il nostro cineforum. Voi siete andati in onda tardi, quindi noi abbiamo perché già tardi? Iniziato, cioè avete iniziato il 9, noi 9 gennaio, noi sì, già a Capodanno abbiamo proiettato il primo film comunista. Ma in effetti il 2 potevamo andare in onda, ora che ci penso. Ma guardi, non è un problema mio, è un problema vostro, io vengo qui, voi mi invitate. Ne discuteremo in redazione più tardi. Discutete quanto ne volete la vostra democrazia, e come vedete è brutta perché nessuno può decidere. Però voglio dire... Quindi lei è contro ogni forma di democrazia. Chiaramente noi siamo per il comunismo e la libertà. Vorrei dire che questo film, il film di oggi, è un bellissimo capolavoro dell'ingegneria cinematografica. Comunque lei quando parla dei film che propone... È girato con un gelato, voglio dire. Cioè nel senso che gli autori hanno in mano un gelato, nel senso di microfono senza fili. Il microfono è girato con un gelato. E infatti c'è uno che si passano tutti, quindi c'è molto, cioè, esatto. I dialoghi sono molto lenti. E il film come stai? Infatti... Esatto. Bene. E esatto, un po' così. E questo è il rumore del passaggio. Il rumore del passaggio. Ma qual è la cosa bella? La cosa bella è che il film si chiama Il Gelataio. Cioè, loro per parlare, gli attori devono acquistare questo gelato. Dal gelataio. E all'inizio è uno, poi diventano tanti. Fin quando si crea un'inflazione di gelati e nessuno parla più perché tutti ormai possono sentire gli altri. Però questo è bello. Cioè, quando suono... tutti possono parlare, a quel punto nessuno parla più perché si è generalizzato. Esatto. Però voi che siete... Ma questo dibattito lei lo deve fare al nostro cineforum. Sì, lo sì, può sì, fare sì, in sì. radio. No, però mi scusi, la domanda. Manda, non, mi ma chi è il regista? Chi è il regista? Pandoro. Frank Pandoro. Ah, pensavo che Pan fosse il nome, Doro il cognome. Frank Pandoro, memorabile regista. Memorabile regista, ha fatto anche un altro film, Il Babbo Natale Comunista, trasmesso appunto a Capodanno. Che però, mi scusi, è un po' facilletto, cioè. È come sparare sulla Croce Rossa perché Babbo Natale è già vestito comunista. No, la storia di quando Babbo Natale era verde. Si ricorda che Babbo Natale era verde? Ma io ovviamente sì, e se lo ricorda soprattutto Giancarlo Mattello, vecchissimo amico, compagno, morto in battaglia. Ricordiamo Giancarlo Mattello. Ricordiamo con 5 secondi dire... di silenzio. Vorrei... No, non 5 posso. 5 secondi di silenzio. No, no, no, no. No, 5 secondi sì. No, 5 secondi di no. Andava bene. Andava bene anche questo. Vorrei dire, venite al nostro cinema. Quando è? Quando? Questa sera. Dimmi quando sera, tu verrai. Questa sera ovviamente. Sì. Io direi che possiamo iniziare. Come direi? Scusi, non c'è quando non volete, vogliamo fare alle 10. Vogliamo fare alle 11. Ma scusi, ma se l'avete stabilito voi il cineforum, non può decidere, non può discutere. Ma è sull'ario. Gennaio, siamo flessibili. Vabbè, facciamo le 22. Le 22 e 15. Ci sono sempre i ritardatari. Il film non dura molto. Quanto? Questa volta dura 2 ore. È un film bellissimo. Mezzanotte e 15, tutti a casa a dormire. Sì, i 2 ore, i titoli iniziali ovviamente. Poi il film inizia con il gelato finché non e trovano questo. Dura, scusi. Il film totale non lo so, non l'ho mai visto. La prima volta lo vedrò. Ah. Mi hanno parlato benissimo. L'ho letto una bellissima recensione su Il Manifesto. Va bene, allora. Del 1918. Vi invitiamo tutti a venire a vedere Il Gelataio di Frank Pandoro alle 22.15 all'arena di Roccapalumba. Vorrei ringraziare quelli che sono venuti in Siberia l'altra volta. Dopo che ho chiamato qui alla radio, ho detto venite in Siberia, salvatevi la vita. Sono venuti e voi siete salvi. Grazie a noi. Va bene, e visto che si avvicina l'ora di cena, noi salutiamo. Posso fare un saluto? Certo. Voglio salutare Medvedev. Medvedev. Lo ha capito, bastano un saluto. Medvedev. Va bene, dedichiamo a Medvedev, a Fidelio Cusimano e a Giancarlo Mattello la canzone di Luca Ozulu e i Pancreas con polenta e kebab. Medvedev. Studiano i rigi dei cerchi e dei longobardi. Non parlano la lingua italiana. Non sanno chi fosse il poeta Leopardi. Ma odiano il kebab. Ma aumenti senza tetto anche la pizza. Chiacchiere da bar. Si mischia la polenta con la razza. Inventa qualche banda. Attirano la folla. Corrito dell'ampolla e l'offerta di Obò. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, racconto i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri bastardi, il tricolore Garibaldi. Odiano il kebab, ma aumento i senza tetto anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa-pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così. Non fa italiani stanno arrivando i napoletani. Napoli merda, Napoli colera, tu sei la vergogna dell'Italia intera. Ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani ce ne sono tantissimi per bene, anche di più. Non siamo noi, noi siamo quelli che pure a Napoli ci chiamano Zulu. Odiano il kebab, ma aumento i senza tetto, anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero. Fedeli è un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti. Se lo incontri per la strada proprio non diresti che lui crede di far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ha un posto fisso in villa, si sente lusingato. Ma poi la vera festa inizia quando se n'è andato. Lui crede di far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Il vero risultato del miracolo padano, l'Andrangheta Milano. Sono le ore 20 e 2 minuti. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Sui problemi dello Stato, s'andò a finire sull'hashish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così. Che bello, due amici, una chitarra e uno spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, le tue boccate di felicità. Dissi io non la contate, no, dico. E che reputazione ditti un po' vi fate, no. La gente giudica voi state un po' in campana, ma quello invece di ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello. Torna in cucina e tra i barattoli uno che. Che bello, col giradischi acceso e lo spinello. E non sarà stato giusto, sì lo so, ma 15 eravamo troppi, no? E questa, amici, è una storia disonesta. E puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare? La la la, la la la la la la. Una storia disonesta con gli Arpioni e Tonino Carotone. Questa me l'hai fatto ascoltare la prima volta quando tornavamo da Piana degli Albanesi. Diranno tutti esti cazzi, ma sono bei ricordi, sono bei ricordi. Ma invece, visto che vi abbiamo fatto divertire, abbiamo fatto sorridere e anche, non lo so, vi avevamo intristito un pochino, non lo so, magari no, emozionato. Magari no, emozionato. Arrivano due momenti horror, perché il primo sarà, lo stai annunciando tu, annuncialo. Esatto, perché la nostra rubrica non smette di accompagnarci, e quindi siete pronti per l'autopunizione con il film brutto, ma poi avremo Silvio Berlusconi in onda. Lo so, sono ormai due momenti horror. Due momenti che non, sì, è stato, che potrebbero andare anche di pari passo. Ma è stato RTL, perché non da noi? Esatto, è stato anche alla 7, è stato ovunque. No, dico, ormai, come radio parlavo, sì, TV ormai neanche si, cioè tutti, anche Telelecco. Qui si divertiva a Telelecco a vedere la famosa partita, esatto. Lecco Benfica allo stadio Bentegodi. Esatto. Vecchie glorie. Sì, ma era anche sponsor di quella bellissima partita. Io l'ho vista, guarda, un successone. ragione. Va bene, allora lanciamo subito la sigla dei film brutti e sarà con noi Marco. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E diamo il benvenuto anche stavolta. Benvenuti per la prima volta nel 2013 a Marco. Ciao grandissimi, ciao. Sopravvissuti. Ce l'abbiamo fatta. È vero, non ne abbiamo parlato. Cioè, noi abbiamo fatto questa puntata. Fidelio l'ha detto che è sopravvissuto. Ah, è vero, ma solo lui. Cioè, noi invece non abbiamo fatto alcun riferimento. Pazzesco. Sì, siamo sopravvissuti a quei Maya. Antoculo e Maya, come direbbe il buon vecchio Cettola qualunque. Com'è andato il Capodanno, carissimo? Ma direi molto tranquillo, molto riposante. Sì, hai visto qualche film nuovo magari? Oppure... No, ho preferito diciamo riposarmi per concentrare poi le forze adesso, per ricominciare alla grande. Per flagellarti ora, diciamo. Esattamente. E per farci flagellare, soprattutto perché ricordiamo che l'interesse è sempre quello dei nostri ascoltatori in primis. Allora, che film ci suggerisci per iniziare nel migliore dei modi il 2013? Nel peggiore dei modi. Nel peggiore, scusi, pardon. Direi un film abbastanza interessante che si chiama Alien vs Hunter. Hunter. Il titolo già mi intriga. Beh, Hunter ricorda una serie anni 80, ti ricordi quella poliziesca Hunter? No. Ah sì, sì che me la ricordo, con quelli con le giacchette di pelle lì. Besiena. Allora, Pisa. Marco, Alien vs Hunter, di chi parla e che film è soprattutto? Allora, Alien vs Hunter è un classico prodotto dell'Asylum, che è questa casa di produzione specializzata nel produrre i cosiddetti mockbuster. Le cioè copie e copia, che sono i film copia dei blockbuster, diciamo, hollywoodiani. Sì. In questo caso il film copiato è Alien vs Predator, ovviamente. Sì, ovviamente. Quindi al posto, diciamo, cioè, al posto del Predator c'è questo Hunter. Che praticamente è un uomo vestito con una specie di armatura medievale, diciamo, molto poco rifinita e una specie di scolapasta in testa, mentre sì. L'alien è praticamente metà, appunto, un alieno simile alien e con le zampe di ragno praticamente. E la trama è veramente risibile, sì, c'è, questo, c'è praticamente un'astronave che diciamo atterra in un bosco che poi è il solito bosco dove si vengono ambientati quasi tutti i film dell'Asylum. Sì. Da questa astronave escono appunto l'alien e l'hunter che cominciano diciamo a darsi di santa ragione. Nel frattempo gli abitanti, chiaramente allarmati da questi accadimenti e resi conto che tutte le linee di comunicazione sono interrotte, cominciano a provare ad attraversare il bosco a piedi per contattare l'esercito, e chiaramente vengono falcidiati o dall'alieno o da questo cacciatore, e quindi poi tentano diciamo di passare attraverso delle fogne per poi ritrovarsi all'interno dell'astronave stessa, praticamente, che in realtà è praticamente lo scantinato di un condominio, praticamente tutta l'astronave è rappresentata dal solito corridoio che come sai con le classiche tubature, no? Sì, di 2000 film. Esatto, perché praticamente i personaggi continuano imperterriti a percorrere sempre il solito angolo, dando l'impressione che questa astronave sia veramente enorme, complessissima, in realtà praticamente sono sempre allo stesso posto. E praticamente poi i personaggi riescono a scoprire che praticamente questo Hunter è in realtà diciamo proprio un cacciatore che si è portato sulla Terra vari alien, perché all'inizio lo spettatore crede che ce ne sia uno solo, invece c'è il mega colpo di scena. Esatto, il grande colpo di scena, ce ne sono tanti. E lei praticamente ha deciso di creare una mini riserva di caccia in questo bosco e lui si uccide diciamo tutti questi alieni. Allora diciamo i prodi diciamo superstiti capiscono che è bene aiutarlo nell'uccidere gli alieni, così poi infatti lui alla fine quando ha finito si beve una birra e se ne torna nel suo pianeta d'origine. Il film è veramente terribile. Ma è veramente terribile, ma realizzato proprio male, cioè l'inquadratura. Allora io ti vengo incontro perché ho visto della Asylum ben due film, mi sono voluto fare veramente male. Ho visto Mega Piranha ottimo, e Titanic 2. No, Titanic 2 io non lo conoscevo. Titanic 2 io voglio consigliarlo invece a Marco, dato che lui consiglia i film a noi. Titanic 2 vedilo perché guarda un capolavoro. C'è, cosa succede? Della... Che l'iceberg no, abbiamo scherzato, non è la vendetta dell'iceberg, no. Rifanno questa nave che è Titanic 2 e di nuovo affonderà, affonda con un altro iceberg, un'onda gigante. Un'onda di come Marco può confermarti, la Asylum gli piace fare delle cose gigantesche e bruttissime anche in CGI. Assolutamente, con ampio uso di CGI veramente di bassa lega, insomma, sì, la CGI più bassa, quella che trovi nei videogiochi anni 80, presente, sì. Quando cominciavano a uscire sì, presente. Doom un po' meglio fatto, è terrificante. Marco, con cosa accompagniamo questo film e soprattutto se c'è una scena clou da darci? Allora, la scena clou direi che è quella, diciamo, in cui entrambi i contendenti sfruttano la dose dell'invisibilità. Totalmente visibili, che infatti non ci sono. Ma non dovrebbe averla soltanto il Predator. Ma ce l'hanno un po' tutte e due, no? Perché limitarsi, insomma. Certo, in pratica, praticamente, è talmente fatta bene perché praticamente in scena non c'è niente. Certo. E ci sono, diciamo, gli attori che si guardano intorno un po' intontiti, senza per bene dove guardare. Diciamo che la scena di invisibilità meglio fatta è la serie del cinema. Assolutamente, assolutamente. È veramente realistico. Almeno in Predator c'era quell'alone, no? Di trasparenza che si muoveva. Lì invece non c'è nulla. Prima. Quindi la Asylum li supera. Ma con cosa ne accompagniamo questo film? Direi uno snack molto frizzante, che è la cintura cola frizz, che è veramente la cosa più frizzante che abbiamo mai mangiato. La cintura cola frizz? Cola frizz. Cos'è? Di marca non definita, però diciamo questa era la denominazione, diciamo, dello snack in questione. Praticamente è una specie di piccola cintola, diciamo, tutta granulosa, e che ha praticamente il potere di attaccarsi alla lingua e al palato in maniera reversibile e praticamente generare un effetto frizzante che nemmeno bevendo 3 bottiglie di acqua frizzante guizza si riesce a... E questa la ingurgitiamo nella scena dell'invisibilità, tanto per rimanere attaccati alla scena. Esattamente. Va bene Marco, allora noi intanto dobbiamo ringraziarti e insomma di farti ancora gli auguri per il nuovo anno, visto che non ci siamo Scusa, sentiti. Ma aspetti un figlio? Io? No, no. No, perché Antonio è impazzito durante la puntata, ha detto: ma Marco, non aspettavo un bambino. Non lo so, no, guarda, ma veramente no, sarà un film brutto e si è fatto in testa. Quindi, i migliori auguri, Marco. Se ma poi auguri, tanti auguri anche a voi e a tutti gli ascoltatori del vostro splendido programma. Troppo buono. Va bene, troppo Marco, buono, ti ringraziamo. Buono, Marco. Ci ascoltiamo un pezzo, lo dedichiamo anche a te. Sono i REM, guarda caso, con It's the End of the World. Ciao Marco! Ciao! Not afraid. I am a hurricane. Listen to yourself. Turn world serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox. Speak grunt. No strength. None matter. Starts to clatter with fear. Fight down. High wire and a fire. Representing 7 games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters. Heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right. You patriotic less a bank's birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but that, right? Siamo tornati in diretta, sono le 20:18, siete sempre con noi, speriamo, fedeli ascoltatori. Questa è sempre la prima puntata del 2013 e credo sia giunto il momento dopo i film... Movie. Perché sei tu? Non ho detto, non stavo per dire Movie. Che era... Vuoi un pupazzo di nome Bubi? Bubi. Lo chiami? Bubi. Dov'è Bubi? Bubi, Bubi. Puoi cercare se Bubi è di là, Bubi. Claudio. Bubi. Non c'è. Bubi. Bubi non c'è, cambia personaggio. Babahim. Perché è un pupazzo arabo? Babahim. Scusa se ho spiatato, ce l'ha la pentola a pressione. Babahim. Vabbè, Babahim lo cercheremo. Ma perché sto bambino vuole Babahim, Andrea? Non lo so, non lo capisco. Però è un bambino che si apre al mondo. Perché io, vedi, non parlo mai quando c'è lui. Perché voglio vedere fino a dove arriva la sua deficienza. Un momento, credo che sia il suo momento. È il momento dell'intervista. Dopo tante radio, TV, si concederà finalmente a noi, prima di andare da Santoro domani sera. Si abbassa la musica. Se siete in casa, spegnete la luce, accendete una candela e pregate. Se siete in macchina, fermatevi sotto la galleria. Anzi no, perché poi non siete a radio. Un po' prima della galleria. Siamo pronti. Vado a chiamarlo. Benissimo, abbiamo sentito la sigla che volevamo. Come facciamo? La canti, no, tu? Sai che in redazione hanno un po' di problemi sulla sigla del nostro carissimo presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che la persona dovevamo insomma presentare. Che siete, ma tantissimi, possiamo, tanti, siete veramente tanti, scusate, col suo... ma mi inserisco perché comunque non partiva. Presidente, guardi, io le faccio il benvenuto in questa trasmissione. Mi dispiace che non sia partito. Addirittura il suo... lei me lo fa. Una volta me lo davano. Lei lo fa il cosa? Benvenuto. Sì, io si dice dare il benvenuto. Le do il benvenuto. Scusate, il benvenuto da parte anche della redazione di tutti. Grazie, e mi scuso per il fatto che non sia potuto partire il nostro, ma il suo in realtà inno di Forza lei, Italia. Lei guardi, può fare quello che vuole, Crimiaccio. Lei è un grande. Grazie, presidente. E benvenuto, quindi. Ritorniamo, insomma, con noi. Va bene Santana come sottofondo? Assolutamente sì. Che il suo, forse ce l'ha presentato un pochettino in ritardo. L'ho quindi... conosciuto quando giocavamo a nascondino, il buon Carlos. Santana. Santana, addirittura. Santana. Santana. Ah, nascondino. Ah, ecco, presidente, ce l'abbiamo fatta, mi scusi. Tutto in piedi, no, per no, favore. Nessuno si alzi, si sta guidando, insomma, che rimanga... Che in macchina rimanga... sei in una decapotabile, presidente. Si mette in piedi, adesso. Presidente, io vorrei non parlare del suo inno, ma farle qualche domanda, no? Presidente, scusate, presidente. Io mi faccio sempre coinvolgere, Crimio. Sì, no, l'abbiamo vista ieri dalla Gruber, l'abbiamo allora, vista... Allora, sì, le consento di farmi tre domande. Tre domande. Tre domande. Dove ha preso i soldi? Dove ha preso i soldi? Nel portafoglio. No, presidente, ma le risposte deve darle anche, diciamo, no? Nel portafoglio di mia madre. Ah. Le vuole complete? No, le vorrei, no, analizzare... Ah, perché, è un portafoglio dire... con un ricamo bulgari e delle perle Swarovski, sì. E c'erano i soldi, tutti i suoi soldi. Dai. Tutti i soldi erano lì. Va bene. Erano a segno. Senta, non lo so, vuole dirmi qualcosa sulla vicenda Ruby? Io non ho mai rubato. Libera. Mai rubato. Sì. Questa è la sua risposta. Quindi la parola rubi non mi corrisponde. È la seconda domanda. Se ne giocate due. Un attimo che sistemo la cravatta. La come quel socio. Allora, mi dica, presidente, il suo rapporto con la Lega oggi, no? Dato che lei ha detto che non vuole. No, no, dipende, mi faccio finire la domanda. Una Lega, no. Ferro rame, no. Oppure magnesio o altro con la Lega Nord di Maroni, no? Ah, lei ha detto lei è volgare. Lei mi ha detto Maroni, non me l'aspettavo. Crimiaccio. Una domanda a piacere le posso fare? Certo, cioè, facciamo piacere, anche una che so che fa piacere a lei. È nato il suo settimo nipotino, l'ha annunciato ieri. Finalmente una domanda prettamente politica, credo. Esatto, ha una testa in più su cui giurare. E infatti, per quello è nettamente una domanda molto più politica di quelle tendenziose che voi della sinistra mi ponete in ogni occasione. Soprattutto io sono qua per parlare di mio nipote. Presidente, corredo cromosomico XY, è un maschietto? Sì. No, volevo chiederle una cosa. Assolutamente non si alza, se ne va, vero? Come da Giretti. Presidente, parlando delle sue vicende familiari, no? Dato che non possiamo fare domande politiche, ma i milioni a Veronica Lario, no? Alla sua ex moglie, lei ha detto ieri che sono stati dati da giudici appunto comuniste e femministe, giudichesse. Sì, confermo totalmente. Ma non crede che l'affermazione sia abbastanza pesante? Guardi, io penso che sia abbastanza leggera. Ma come leggera? Cosa avrebbe voluto dirgli? Presidente, no, voglio dire inizia con la M. No, è una parola molto amata a Roma. No, allora, presidente, parliamo di altro. Cosa dirà domani invece a Santoro? Dato che ha fatto questa scelta forte di andare da Santoro. Qualcuno ipotizza che lei vada lì per riprendere i suoi elettori. E tanto quelli di Santoro lei non li prende, quindi insomma. Diciamo che domani, come si dice, una volta diceva un mio amico Giuseppe di nome, o si fa l'Italia o si muore. Suo amico Garibaldi. Ovviamente. Ma non era il suo amico. Siamo stati grandi amici all'asilo. Ma non è possibile. Ma come? No, presidente, sicuramente non è possibile. Ma io vorrei qualche nota politica. Mi dica un punto fondamentale del suo programma se dovesse essere eletto. Vorrei tantissimo che ci fosse sembra il Luna Pop, una Ruby per ogni italiano. Ma no, ma questa non sì è... che piaccio. Vabbè, togliere l'IMU ma inserire le case chiuse. Come inserire le case chiuse? Cioè, non togliere l'IMU dalle case chiuse. No, togliere l'IMU in generale e reinserire le case chiuse. Quindi abbiamo iniziato parlando della Merlin, della legge Merlin. E finiamo alla Mago Merlin. Alla Mago Merlin. Non so se mi trova l'assinenza. L'assonanza. Mi vendi l'assinenza perché da un po' che non vedo Ruby. Ah, come? No, scusate, mi consenta, ogni tanto ne avrei bisogno. Di Ruby. Capisco, presidente, senta, l'ultima domanda la vogliamo fare un pochettino sull'economia, no? Sì. Va bene, una domanda sull'economia. Lei ha dichiarato che lo spread sia cattivo. Lo spread è una cosa inutile, no? Una finzione. Ma cosa ne pensa in realtà di questo spread? Lei non pensa che oggi con lo spread molto basso l'Italia guadagni e risparmi molti soldi sull'acquisto, sulla vendita dei titoli di Stato rispetto a quando era in carica lei, presidente? Quindi perché? Lei ha mai visto in faccia Angela Merkel? Sì, dico. E dietro? Dietro ce l'ha descritta ampiamente. Cosa c'entra? Ho dato un ottimo dipinto della signora. Culona inchiavata. Esatto. Quindi come può pensare lei che sia un reale indice del benessere un paragone tra il differenziale tra i titoli a 10 anni nostri contro quelli di un paese che si permette di mettere una donna come quella al capo? A lei la pone sul lato estetico. Assolutamente sì, ma viva l'estetica. Capisco, presidente. Spero insomma che anche lei da domani. Mi sa dire qual è il poeta che parlò dell'importanza dell'estetica in Italia, uno dei più grandi esteti? No, guardi, presidente, non neanche so io, però, no, però possiamo studiarlo insieme. Sì, lei mi ha dato un assist che non è stato raccolto. Io voglio puntare tutto il mio programma sull'istruzione. Sull'istruzione. Le tre I. Le tre I. Inglese, informatica, no? No. Inchiamabile, no. Per riconoscere subito la Merkel. Sì. Ok? Intelligenza, non voglio cretini in Parlamento. Certo. E poi ippica, perché se non fate nulla buttatevi sempre su una buona vecchia che non tramonta mai, perché guarda, ha aperto una saletta sotto casa mia, no, ad Arcore, presidente. Niente male, cioè, ma io il vulcano che continua ad accenderlo, sì, così. Ogni tanto erutta, ma solo se mangio pesante. Va bene, presidente, la ringraziamo, noi siamo in chiusura, come sa dobbiamo lanciare la sigla sempre finale, illuminante il nostro presidente, il nostro ex presidente, sì Antonio. Chissà se lo perché sarà, non gli hai fatto nessuna domanda, tra l'altro perché ero in bagno. Io sono sempre in bagno quando arriva Napolitano Berlusconi. Ho visto che ti facevi un po' inibito, sì, dalla figura di Berlusconi, sì. E anche un po' deluso che non ha partito l'inno all'inizio. Sì, aspetta che c'è qualcuno che bussa. Chi è, Antonio? Ah! Chi è? è l'ex ministro. Ho fondato un partito nuovo. Che I moderati. I moderati. La Russa. No, caro, il nome è I moderati. I moderati. Caro Ignazio La Russa, benvenuto. Ma siamo ai saluti finalissimi, quindi lei deve assolutamente. Io volevo dire votatemi perché siamo un partito credibile. Lei guardi, è proprio diciamo l'emblema dei moderati. Il simbolo è un carro armato e una pistola. A salve. A salve. Forse. Ma il motto qual è? Ehi ehi ehi la la la. No, il motto è meno margherite, più odoacre. Ci ho pensato un pochino. Non me lo ricordavo. Non si ricordava il motto, caro. Comunque mi piace questo qua, perché ha la maglia nera. E mi piace questo regista. Il nostro regista, sì, intende. Si è anche guardato, non si ricorda come minchia si era vestito, guardalo. Si è guardato il regista. E vabbè, caro La Russa, noi dobbiamo salutarla. La ringraziamo per aver bussato. Ma grazie minuto. A lei di avermi aspettato. Non si preoccupi, non avrei potuto mi rinunciare. Mi sta venendo il mal di gola. Certo, lei se non torna a parlare come dovrebbe. E mi riporti anche Antonio, per favore. Va bene, allora siamo ai saluti finali. Eccoci qua, eccoci. Eccoci, lo diceva anche Medvedev. Siamo ai saluti finali dalla Russia con amore. E da Rocca Palumba, eccoci. E ci rivediamo mercoledì prossimo. Io direi di fare salutare anche il nostro ospite, saluto sempre dietro di noi come un gufo, sì, Giorgio. Facciamolo parlare, sì, di qualcosa. Salve a tutti. Salve a tutti. No, ma stava iniziando un discorso. Salve discorso. A tutti. No, buon proseguimento di serata. Salve a tutti. No, buon proseguimento di serata e chiudila. Qua ci vuole la chiusa, vai. A più tardi con carta straccia, dai. Dai, dillo, annuncia il prossimo programma. A più tardi con carta straccia. A più tardi con carta straccia. Vai, un applauso. Ce l'ha fatta. Se ce la facciamo a Dario, va bene. Allora, se voi vorrete, mercoledì prossimo, giorno 16, noi saremo sempre qui dalle 18.30 alle 20.30. Meno minchiate, più roba interessante, cioè le interviste, i nostri gruppi indie rock, le interviste ovviamente, vabbè, a Marco dei Film Brutti ormai è una cosa da fare. È una avremo un'intervista soprattutto con un giornalista di Milano Finanza che ci verrà a parlare del film Django Unchained, il nuovo capolavoro di Quentin Tarantino, quindi una piccola anticipazione ve l'ho data, e poi ci sarà sempre la nostra classifica delle 10, sì. Le nostre notizie, i nostri profili, i nostri video, i nostri tutto quello che volete. Sì, tutto quello ma che volete. Andremo soprattutto in onda dalle 18 alle 20, non più dalle 19, scusate. Dalle 18.30 alle 20.30. Quindi ho detto un errore, cambia l'orario dalle 18 alle 20. Un errore, non ti preoccupare. Quindi non tre volte ma quattro. Ma quattro volte. Se non ci avete sentito fin dall'inizio, stasera a mezzanotte in replica la puntata che sta per concludersi. Allora noi vi salutiamo, lui dall'altra parte dello schermo. Vetro era Claudio, nelle vesti di Alessandro Brumba Montemagno. Che salutiamo, che ha la febbre, il nostro ciao, caro regista ci ascolta a letto con 39,5. Mezzo. Perché gli ha aumentato? Erano 38 e mezzo. E ha fatto aumentare te. L'ho fatto aumentare io. Vabbè, si sarà emozionato. Lui era Andrea. Lui era Antonio. E noi eravamo l'esercito del surf con l'onda in onda. Quindi ci vediamo la settimana prossima. Ciao.